Nella Lega comanda Bossi, nell'Inter Mourinho, in Vaticano il Papa, alla Fiat comanda Sergio Marchionne, alla Casa Bianca il presidente Obama, nel Partito Democratico comanda Bersani. Ma secondo voi, dov'è che abbiamo sbagliato? E qui comando io, e questa è casa mia, ogni dito io saprei.